lo facciamo da anni, anche quest'anno abbiamo proposto il nostro regolamento, non è stato accolto con la dovuta simpatia dall'Associazione Italiana Calciatori, che non vuole questo regolamento, vorrebbe che noi premiassimo delle società, e faccio un esempio per far capire a tutti, che una società che va in campo con 10 32enni e uno di 19 anni, noi dovremmo dare il minutaggio a quelli di 19 anni, è una follia assoluta, perché noi se non mettiamo un limite a certe situazioni, è chiaro che i presidenti sulla spinta della piazza, sulla spinta magari di risultati che non vengono, gli prendono la mano. Così invece non, nessuno può prendere la mano a nessuno, se vogliono, una scelta imprenditoriale, non è un obbligo quello di far giocare i giovani, è una scelta, se però uno, ecco, non li fa giocare non prende i soldi, è tutto lì, quindi non stiamo obbligando nessuno, stiamo facendo un'operazione nell'interesse del calcio nazionale, tutti prendono soldi, tutti, ecco, quelli ma... di giovani in campo, in base ai minuti che giocano, alla fine in base a un valore minuto che si calcolerà, naturalmente matematicamente, vedendo quanti sono quelli che giocano con questi giovani e con le risorse che la federazione ci dovrebbe erogare, cose che non ha ancora neanche accennato, noi proseguiamo su questa strada, riteniamo che sia una strada giusta.